Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto ad Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Con noi questa sera in studio c'è il dottor Francesco Micheli, imprenditore, finanziere, che da domani sarà nel nuovo CDA della Scala, nel nuovo Consiglio d'amministrazione. Devo anche dire che è stato nominato dal ministro e domani debutta anche il presidente Maroni. Una curiosità, sia Francesco Micheli sia Roberto Maroni sono due persone che vengono dalla musica, sebbene, diciamo così, da mondi diversi, anche perché Francesco Micheli era figlio di un professore del conservatorio che tra l'altro ha sposato una sua allieva, quindi anche la mamma ha studiato al conservatorio. Anche Francesco Micheli ha studiato musica e poi aggiungo, perché è un vanto un po' per Milano, per Torino, per l'Italia, Francesco Micheli è stato l'inventore, l'anima e il cuore di Mito, questa grande rassegna che dalla fine dell'estate per l'autunno, insomma per buona parte dell'autunno, impegna con concerti, con situazioni, con presentazioni eccetera, proprio Milano, Torino e diciamo così tutto il nord Italia. No, diciamo che il grande settembre che parte da Torino 30-35 anni fa e che abbiamo poi realizzato a Milano creando una sorta di unico palcoscenico tra le due città. Ecco, posso dire che lei sta lottando con i denti per salvarlo? Sì, con le unghie, con i denti se posso dire, perché la crisi morde ferocemente e purtroppo la cultura è sempre un po' nell'allocazione delle risorse non ai primi posti e quindi si lotta moltissimo. Ecco. Vabbè, allora buonasera dottor Micheli, adesso la posso salutare? Finalmente, buonasera, grazie, allora, sono molto, molto felice di essere qua. Ma molto felice lo sono io, lo siamo noi, lei ogni tanto comunque è ospite fisso di Radio 24, lei sa che quando abbiamo bisogno di qualche cosa la chiamiamo e lei sempre generosamente. Allora, da domani debutta nel CDA della Scala. Sì, domani c'è questo, per me è un rientro in realtà, perché sì, ho fatto alcuni anni, sono comunque in Scala perché sono sempre nel consiglio di amministrazione della Filarmonica della Scala, che è un gioiello che amo molto, anche perché poi insomma è stato fondato da un amico, da Claudio Abbado, che tra l'altro ieri è stato ricordato e celebrato a Firenze con un requiem diretto da Daniele Gatti, molto molto bello. Ecco, dottor Micheli, dunque, CDA della Scala, poi magari parleremo di prospettive, parleremo dell'Expo che tra l'altro vede la Scala impegnata seriamente. Lei ha fatto recentemente, un paio di settimane fa, un'intervista su Repubblica in cui ha parlato di Expo, ha parlato di molte altre cose, una bella intervista tra l'altro, e si può dire che lei, diciamo così, mette il suo cuore a nudo ogni tanto e questa sera la pregheremo proprio di snudarlo completamente. Con pudore. Con pudore. Cioè, certamente una trasmissione pudica. Ecco, quali sono, secondo lei, ma proprio una battuta, poi ci inoltriamo con la musica. Tra l'altro, ecco, devo dire, le musiche di questa sera le ha scelte Francesco Micheli perché è una discoteca fantastica e poi anche tutte cose veramente pregiatissime. Le volevo chiedere, come sono le prospettive per Expo? A che punto siamo? Ma credo che Expo, diciamo, per l'ultimo colpo di coda che è stato dato, prima c'era il dubbio che addirittura si realizzasse, viceversa si realizzerà, diciamo il più completo possibile. C'è una grande ripresa di interesse. Sabato della settimana scorsa abbiamo avuto i 42 tavoli all'Hangar Bicocca con la presenza di Renzi, che è stato come al solito molto, molto energico, molto preciso, e quindi c'è una comunione degli intenti per cui si va a farla. Ecco, purtroppo certe cose non si riesce a tempo a farle, non si ha il tempo per farle, cioè i peccati di omissioni per quanto riguarda, diciamo, una linea culturale, qualche cosa, diciamo, di degno e soprattutto di legato a quello che è l'identità, diciamo, del paese culturale, purtroppo è stato un peccato di omissione, quello non si riuscirà più a correggerlo. Pazienza, accontentiamoci di quello che c'è e rallegriamoci se, come è evidente, si realizza, e si realizza, diciamo, a un livello di galleggiamento sufficiente. Una battuta da un minuto, dottor Micheli. Lei torna alla Scala e nel Consiglio d'amministrazione Quanto lavoro avrete quest'anno, a parte gli appuntamenti di Expo, eccetera? Ma ci sono un po' di cose, forse? Sì, credo che vengano al pettine diversi nodi che vanno affrontati. Sono nodi legati purtroppo al bilancio, sono nodi legati alla gestione del teatro, sia sul piano proprio tecnico-gestionale, sia anche alla gestione artistica. Quindi cose che in questi anni si sono un po' accumulate e spesso non affrontate, credo che necessariamente siano destinate a essere presenti, e in un certo senso la chiamata a Maroni anche rappresenta diciamo un rafforzamento per quanto riguarda l'attenzione che anche il mondo politico può e deve avere per la Scala, il che non significa semplicemente dare soldi come normalmente viene richiesto, ma anche dare indirizzi dal punto di vista della buona gestione degli adempimenti, soprattutto in tempi come questo di spending review, per cui tutto va tarato secondo livelli accettabili. Lei diceva che ci sono un po' di lacrime, un po' forse di restrizioni, ma soprattutto bisogna mettere in ordine dei conti. Sì, diciamo certamente va affrontato per la Scala, mi spiace ripetermi, ma lo dico spesso, un nuovo modello di gestione, un modello di gestione che tenga conto proprio di cambiamenti del pubblico, di cambiamenti del posizionamento del teatro lirico in questo paese, ma questo riguarda anche gli altri teatri, e quindi per me l'auspicio che la Scala si impegni su un modello di questo genere, che diventi poi anche tra virgolette esemplare, quindi modello per gli altri teatri, perché secondo me l'unico modo di sopravvivenza dei tanti teatri lirici di questo paese proprio è l'adeguamento a qualche cosa che mette in comune, che mette in rete tanti aspetti appunto della gestione, poi non solo tecnica ma anche artistica. Certo, ci sono dei problemi che ereditiamo dal passato, ovviamente dal punto di vista economico, no? Sì, nel senso che sono come certe pitture antiche in cui i restauri eccetera eccetera si sono sommati, e quindi abbiamo delle incrostazioni seppure artistiche ma piuttosto spesse, e quindi ci vuole un'opera di restauro attento, di restauro conservativo, soprattutto legato a quello che è il valore più importante della Scala, che è la propria identità, di un aspetto musicale fondamentale che è la lirica italiana. Non va dimenticato che l'Ottocento è famoso nel mondo per la lirica italiana, così come l'Ottocento tedesco è famoso per la grande musica sinfonica. Quindi un ritorno non al nazionalismo, cioè un teatro molto internazionale, però che ritrovi la propria identità, che poi è quel valore per cui la Scala è famosa nel mondo. Certo, e poi c'è questo impegno supplementare per Expo, no? In più c'è questo impegno molto forte per Expo, c'è questo festival di orchestre già previsto dal predecessore di Pereira, e che è un impegno, mi spiace che di criticare, ma che anche qui non tiene conto delle realtà nazionali, cioè abbiamo 5 orchestre straordinarie, credo tra le più importanti del mondo, ed è un magnifico invito alla Scala. Poi abbiamo 2 sole orchestre italiane, una che è di casa, che è la Filarmonica, e Santa Cecilia, ma poi ne abbiamo ben sei concerti a orchestre giovanili sudamericane. Allora, uno sarebbe bastato, perché per carità sono ragazzi magnifici e vanno anche aiutati, ma con le orchestre italiane magari anche un po' meglio certe volte e che soffrono la fame, insomma l'Expo avviene in Italia, la paghiamo tutti noi, insomma un po' di orgoglio nazionale sarebbe stato necessario, ma in quel momento evidentemente non interessava molto. Lei ha portato un brano di Bach che ricorda un po' Le lacrime e il sangue, non c'è nessun riferimento o forse... Guardi, è del tutto casuale, perché è una... Dunque Bach è ovviamente famosissimo per tutto quello che ha fatto, ma per le cantate è la summa assoluta. Posso dire, per me è come Dante Alighieri, leggendo Dante c'è tutto, leggendo e ascoltando le cantate c'è tutto lo scibile musicale, non solo dell'artista, del compositore Bach, ma proprio veramente della creazione musicale. Suo intervento, diciamo così, nel consiglio di amministrazione della Scala sarà anche quello di riportare una certa, diciamo, situazione di bilancio. Ma diciamo Certamente, nel senso che poi c'è una responsabilità degli amministratori, perché quando si progettano anche cose molto belle, molto importanti, ma non ci sono le risorse per farle, si tratta proprio di un peccato grave che va affrontato, è come i famosi peccati di omissione di Giovanni XXIII memoria, ecco, no? Che sono certo. Gravi come peccati mortali, quindi vanno affrontate certe cose che sono veramente molto importanti, e va affrontato una serie di aspetti anche di, diciamo, di credibilità per il teatro. Purtroppo, come sappiamo, abbiamo molti molti posti vuoti, soprattutto i palchi, vediamo, c'è stato un distacco un po' dalla diciamo dei pazienti, come si vengono chiamati certe volte, i clienti, e quindi del pubblico, che non ha ritrovato quello che vorrebbe avere. Quindi si tratta di ridare quello che poi vuol dire ricollegarsi alla grande storia del teatro, e abbiamo fatto sentire prima qualche cosa, ma anche col contemporaneo di un certo tipo. E per quanto riguarda essere molto internazionali, con coproduzioni però fatte alla pari e non con discrasie dei costi sempre a nostro danno, e credo una grande valorizzazione della Filarmonica, che è fondamentale, e soprattutto dell'Accademia, tenuto conto che l'Accademia è una grande fucina e non può distrarsi da Aslico, che è nata tanti anni fa e che dal punto di vista tecnico è qualcosa di unico. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo in studio con noi Francesco Micheli, molto noto nel mondo della musica, ma anche in quello dell'imprenditoria, della finanza. Ricordo che da domani il nuovo consiglio di amministrazione della Scala, su nomina del ministro Franceschini, e ricordo anche che è l'anima e il cuore di Mito, questa rassegna che lui stesso ha inventato e che tra la fine dell'estate e l'autunno, diciamo, offre musica veramente di ogni genere e di ogni, e per ogni possibilità, insomma, per tutte le teste, per tutte le tasche, possiamo dire così. Diciamo che ama dire che difende Mito con le unghie e con i denti, e quindi dalla crisi, da tutto. Se le facessi una domanda su Mito, so che la conferenza stampa di presentazione sarà a maggio, quindi a Expo inoltrato, però terrà conto anche un po' dell'anno eccezionale, no? Sì, certamente c'è un'attenzione forte a Expo e quindi a tutto quello che sta attorno, e in tal senso facciamo parte, insieme a Sentieri Selvaggi e a Divertimento Ensemble, a una rassegna che porta, diciamo, a un compositore contemporaneo che verrà selezionato attraverso un meccanismo interessante, e quindi ci sarà anche una presenza di questo tipo, e cercheremo comunque di, diciamo, aiutare tra virgolette anche noi nel nostro piccolo Expo, offrendo il massimo che il nostro bilancio ci consente di offrire. Però ci sarà questa diffusione di musica per tutta la città, come sempre, 4-5 concerti al giorno, avremo grandissimi nomi, Atemir Kano, Fagergiev, eccetera, eccetera. Ma questo non vorrei non anticiparlo, perché andremo poi appunto anche a Torino, ovviamente, che è molto vicino a Milano, anche per quanto riguarda l'Expo. Neanche un'ora con l'alta velocità. Ecco, insomma, che era il sogno iniziale quando 8 anni fa è partito il festival, era proprio quello di avere anche questa vicinanza che ci consente appunto di poter partecipare anche a concerti che avvengono là, perché una delle caratteristiche del festival è che le programmazioni sono differenti, quindi la stessa orchestra non suona la stessa cosa qui o là. E quindi anche quest'anno sarà molto bello, in settembre, avere questa straordinaria partecipazione di pubblico, perché è una delle manifestazioni, ormai posso dire in termini di festival, più noti in Europa, ma certamente per Milano è una presenza assoluta, perché abbiamo il 98% dell'occupazione degli spazi disponibili. Ecco, quello che non accade invece nei teatri, perché parlavamo prima della Scala, ma diciamo che se la Scala ha qualche problema, occorrerà fare delle attenzioni, come ha detto, nei bilanci, la programmazione, la Scala può dare il là, la situazione dei teatri in Italia è piuttosto grave. Sì, diciamo che poi non è un problema solamente italiano, ecco, quindi una volta tanto consigliamoci anche per le pene altrui, però certamente in Italia appunto reggere il costo e la presenza presenza di 14 teatri lirici non è semplice. Scusate, quello che è necessario appunto è una rivisitazione, come dicevo prima, alle gestioni, un coordinamento, essere in rete, che questa è la prima cosa appunto per cominciare, e tenere conto che i destinatari delle programmazioni non sono lo stesso pubblico di quando quei teatri sono stati fondati. Oggi è un pubblico più giovane, più attento a tutto ciò che è esperienziale, e quindi bisogna, mantenendo quelle radici fondamentali per cui la lirica italiana è importante, ma anche adeguare l'offerta appunto a un pubblico che è differente. Quindi sono tanti fattori assieme, e che credo la Scala debba affrontare prima degli altri, perché essendo il più grande di questi teatri, il più famoso nel mondo, è giusto che dia l'esempio. Certo, una mano potrebbero darla le scuole e ovviamente i mezzi di comunicazione, che invece... Ma le scuole, per esempio Mito le coinvolge moltissimo, già prima del festival, e tenuto conto che ahimè la musica non viene più insegnata nelle scuole, però potrebbe essere anche questo. Insomma, la Scala Filarmonica soprattutto ha aperto moltissimo ai giovani, anche la Scala, la pre-prima inventata da Lisner, è stata una cosa buona, cioè avere questo spettacolo riservato ai giovani. E, però bisogna incrementare molto questo, che poi è una situazione delicata pari passo con quella dei musei, cioè la crisi museale italiana è che, perché anche lì i musei hanno delle configurazioni molto, molto, molto legate al passato, e quindi il pubblico oggi fa file chilometriche per vedere un'unica opera esposta a Sala Lessi, in questa magnifica, benedetta costumanza di offrire un grande capolavoro, e non va nei musei accanto, basti pensare all'Ambrosiana, no? Dove sì, insomma, sì, il cartone, la scuola di Teni Raffaello, cose Caravaggio straordinarie, e non vanno perché non c'è un'attenzione nel porgere, nell'offrire. Sono in qualsiasi, devo dire, parte del mondo, musei di questo genere verrebbero offerti in un modo allettante, in modo, come dire, i clienti bisogna conquistarseli. Bisogna conquistarseli, insomma, perché sono clienti che per fortuna in Italia, nel DNA, hanno veramente degli elementi di fortissima sensibilità per la cultura. Quando la Filarmonica fa un concerto in Piazza del Duomo, piove e 45.000 persone vanno a sentire un concerto difficile, Saga della Primavera, diretto da Isabella Salonen, che è un direttore straordinario, ma diciamo non così popolare, eppure la gente va, quindi la gente merita quello e aspetta quello, ecco, certo. E in questa direzione bisogna andare. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo in studio il dottor Francesco Micheli, ricordo, imprenditore, finanziere, ma soprattutto uomo di musica, figlio d'arte, perché il padre insegnava il conservatorio di Milano, la mamma era allieva del padre, quindi studiava il conservatorio, lui stesso ha studiato musica, ma so che è stato frenato quando voleva proprio fare il conservatorio, gli hanno detto ci sono troppi musicisti in casa, no? La frase esatta era ne basta già uno in casa. Basta c'è uno in casa. Ecco, ricordo che da domani sarà nel nuovo consiglio di amministrazione della Scala, nominato dal ministro Franceschini, e soprattutto poi ricordo che questo è un grazie di tutti i milanesi, è un po' stato l'inventore, ma è anche colui che porta avanti Mito, questo festival che effettivamente offre musica a tutta Milano, a tutta Torino, a tutta l'Alta Italia, tra la fine dell'estate e l'autunno. La frase di Prammatica è: lo difende con le unghie e con i denti dalla crisi. Ecco, questo io lo dico sempre per non avere problemi. Dottor Micheli, una domanda a tradimento. Un'agenda per Milano, che è un po' l'agenda italiana in quest'anno, gliela faccio così, oggi è la metà di febbraio, cioè anzi metà. Beh, diciamo, superata. Posso dire, un po' è anche appropriata, perché, e mi parlo addosso, ho contribuito alla nascita di Mi World, che è questo, io la chiamo un po' un'accademia rinascimentale, dove si è realizzato quello che il povero Guido Martinotti ha sognato per tutta la vita, cioè quello di mettere in rete le università milanesi, che sono veramente una ricchezza enorme della città e che si parlavano poco. Ecco, oggi al piccolo tavolo di Mito, a parte ci sono esponenti di diverse umanità della città, ma ci sono le università. E quindi diciamo, cerchiamo di avere, insomma, l'economia della conoscenza e tutto ciò che Milano ha bisogno di avere, cerchiamo di pensarlo, di produrlo. E già abbiamo avuto delle manifestazioni importanti sia al Politecnico sia al Verme, per esempio, per i giovani, e con delle ricerche che riguardano le presenze degli studenti estranei a Milano, quindi stranieri, anche quelli che non vivono qui, e con la partecipazione anche del sindaco Pisapia, che ha seguito con molto interesse. Quindi noi siamo in una direzione che è di qualche cosa che la città ha bisogno di avere, che sono poi dei fattori molto importanti, fattori legati soprattutto al tempo. Cioè, noi non abbiamo, una volta i nostri vecchi dicevano: il tempo è denaro, mai come adesso, quando gli altri paesi corrono proprio e producono perché tengono presente questo fattore, che poi è importante in tutto. Quindi è banale ricordarlo, ma è fondamentale la capacità di decidere, di non rinviare. Avere il coraggio, io amo dire, il principe deve avere il coraggio delle proprie decisioni, e quindi bisogna, insomma, in qualche modo ci vuole una grande iniezione di sangue di bue per far sì che questo rilancio che la città sta vivendo, ma che proprio che acceleri molto. Il primo maggio, tutte le polemiche che ci sono il primo maggio, ecco, dove devo dire che Pereira proprio una settimana fa su un'intervista dice che si può produrre anche con metà diciamo personale, il che è un'affermazione abbastanza delicata, perché se andasse applicato a, diciamo ai costi scala, significherebbe che la scala avrebbe un bilancio straordinario, ecco. Quindi è un po' forse un'incauta dichiarazione, ma lo dico con tutto l'affetto possibile, ovviamente. Vabbè, Turandot comunque, tra l'altro una Turandot speciale diretta da Riccardo Chailly, no? Sì, diretta da Riccardo Chailly con una giovanissima orchestra, e quindi è un bel inizio. Sono convinto che il primo maggio si farà, e bene, anche per il monito forte che ha dato Matteo Renzi, che è stato molto presente anche su questa vicenda. Abbiamo un minuto e mezzo ancora. L'anno venturo ci sono le elezioni. Le vengono in mente alcune cose, alcuni segnali da dare a Milano? Beh, guardi, non voglio fare grillo parlante su questo, ecco. Certamente, quanto si diceva prima, cioè bisogna capire che c'è un grosso cambiamento anche nella popolazione. Insomma, la politica, abbiamo visto, cambia con dei blitz incredibili, no? La classe dirigente, viceversa, no, e questo è il vero problema del paese. Però anche la popolazione cambia nell'approccio, cioè le prossime elezioni vanno pensate per chi parteciperà, tenendo conto che abbiamo tre Milano, una Milano oggi, abbiamo una Milano, diciamo, più tradizionale, io dico la Carlo Porta, dove certe, diciamo, presenze anche leghiste sono molto importanti. Poi abbiamo una Milano più innovativa, più internazionale, sono questi giovani che fanno la spolla tra Milano e Londra, e poi c'è la Milano multietnica. E il problema è che tutte queste tre realtà parlano con dei Twitter, e sono Twitter nelle loro lingue, quindi c'è un mondo che è cambiato, e quindi bisogna tenere presente che oggi il mondo si è evoluto molto più velocemente rispetto alle ultime elezioni, e quindi chi parteciperà all'attenzione dovrà tenere presente, appunto, che questa è una realtà forte e che crescerà sempre più. Ha usato l'avverbio velocemente, purtroppo è velocemente finita anche questa nostra trasmissione, dottor Micheli. Il tempo è volato. Beh, devo dire con molto piacere. Beh, è finito in un buco nero, perché abbiamo pochi secondi per salutarci. Salutiamoci, appunto, come dice lei, ricordando queste musiche molto belle che abbiamo ascoltato e che casualmente danno anche un senso ai temi che abbiamo trattato. Io ringrazio voi, cari ascoltatori, per averci seguito come sempre. Vi do appuntamento domenica prossima alle 21 e saluto Francesco Micheli per essere stato con noi. Un caro saluto da Armando Torno. Grazie, un caro saluto da Francesco Micheli.